Dietro la notizia di Gianfranco Fabi. Buongiorno, bentornati ai nostri ascoltatori. Oggi parliamo con il presidente dell'Authority per le comunicazioni, Corrado Calabrò. Buongiorno, dottor Calabrò. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Grazie mille. Corrado Calabrò è da 3 anni alla presidenza dell'Authority per le comunicazioni, l'autorità per la garanzia delle comunicazioni, Authority che ha come obiettivi l'attuazione della liberalizzazione nel settore appunto delle comunicazioni, oltre che a vigilare sulla qualità e sulla modalità dei servizi, dei prodotti di informazione. Un impegno molto vasto. Oggi Corrado Calabrò sul Sole 24 Ore ha pubblicato un intervento in cui lancia una grande ipotesi, un sostegno pubblico all'autostrada del futuro, un investimento che porti l'Italia, porti il nostro paese a livello degli altri paesi per la società che viene chiamata sempre di più la società dell'informazione. Allora, dottor Calabrò, perché questo intervento, perché questa sollecitazione in questo momento? Sono 2 anni che io propongo questa esigenza, questa necessità di guardare al futuro del nostro Paese. In questo momento in cui si corre a tamponare affannosamente il presente sostenendo le istituzioni finanziarie, non bisogna dimenticare che il crollo finanziario è dovuto al mancato collegamento tra finanza e economia reale. Ecco, i fondamentali dell'economia reale devono essere tenuti presenti e tra questi fondamentali c'è lo sviluppo della rete di telecomunicazioni, la quale è la struttura portante di questo sviluppo, specialmente in un paese come l'Italia, basato sui servizi. Ecco, mentre ricordo gli ascoltatori, l'800 24 00 24 per le vostre telefonate, vorrei approfondire appunto questo tema, una rete fondamentale per i servizi, una rete fondamentale sia per le imprese sia per lo Stato, fondamentale per le imprese perché possono connettersi con il resto del mondo, sia per il rapporto tra i cittadini e lo Stato, un rapporto che è un po' da ricostruire, questa fiducia tra i cittadini e lo Stato. Questi due obiettivi potrebbero essere, se non raggiunti, perlomeno facilitati attraverso un miglioramento delle comunicazioni, dottor Calabrò. Senza dubbio, e guai d'altra parte a restare indietro. L'Italia è un po' il paese delle occasioni perdute. Abbiamo perduto l'occasione del nucleare, abbiamo perduto altre occasioni. E rischiamo di restare emarginate alla periferia dell'Europa. Quando invece in questo settore siamo stati fino a ieri, ma direi fino a oggi, all'avanguardia, perché abbiamo la rete più sviluppata sulla base della tecnologia attuale, cioè per quanto riguarda le comunicazioni via voce. Abbiamo che il 150% dei cittadini ha un telefonino, abbiamo la frequenza UMTS che è la più apprezzata nel mondo, e in questo siamo i primi nel mondo, i secondi dopo il Giappone, i primi in Europa. Tutto questo però è arrivata al capolinea se adesso non si fa un salto di qualità, perché adesso dinanzi a noi c'è un varco da superare, che è questo del passaggio a una velocità maggiore, perché i servizi di voce sono saturi, i servizi tradizionali mostrano la corda e invece è in continuo incremento il traffico dati, i ragazzi scaricano audiovisivo, i professionisti, le piccole imprese hanno bisogno di collegarsi in velocità paragonabile a quella degli altri paesi e per questo è indispensabile la fibra ottica. Ricordo che il Giappone, la Corea, la Cina hanno lanciato programmi governativi per la realizzazione di una rete in fibra ottica che dia 100 megabit di velocità. Noi quando raggiungiamo i 7,5 in qualche punto, in qualche località, i 20 megabit è già tanto, ma per il resto è tutta una strozzatura in cui si intasa il possibile sviluppo del paese. Ecco, lei giustamente, dottor Calabrò, che ricordo è presidente dell'Authority per le comunicazioni, ricordava poco fa che l'Italia è ai primi posti, soprattutto per la diffusione dei telefoni cellulari, delle reti cellulari. Ecco, in questi primi posti è stato raggiunto grazie all'intervento dei privati, all'intervento del mercato, agli investimenti che sono stati operati da aziende privatizzate o private. Non è possibile pensare allo stesso obiettivo anche per la rete a fibra ottica di cui si parla, cioè che sia il mercato a fare la sua parte e che possa, attraverso le prospettive di guadagno che possono esserci con lo sfruttamento di questa rete, fare gli investimenti necessari. Si tratta di investimenti così forti che devono essere fatti dallo Stato, dottor Calabrò. Guardi, effettivamente la rete mobile in Italia si è sviluppata incredibilmente, merito dei privati, un piccolo merito anche per le regole proattive e pro-concorrenziali che l'autorità ha dettato. E noi abbiamo nella rete mobile il mercato più competitivo al mondo, con tra l'altro tutti operatori stranieri tranne uno, la TIM. I margini di profitto sono stati sufficienti perché si sviluppassero, anche perché gli investimenti erano modesti. Per il rinnovo, la rigenerazione della rete di telecomunicazione in fibra ottica invece sono necessari investimenti imponenti da 8 a 15 miliardi di euro. Nessun operatore oggi, Telecom compreso, è in grado di fare un investimento del genere. Certo, deve proporselo. Certo, l'iniziativa privata non deve venire meno, noi non vogliamo, sia chiaro, lo Stato proprietario né lo Stato imprenditore, non vogliamo tornare al passato, ma riteniamo che debba restare aperta la via all'intervento pubblico. Abbiamo oggi interventi affannosi di salvataggio nel campo finanziario delle banche, poi si parla anche di industrie indubbiamente importanti come quella automobilistica. Beh, il 50% dell'incremento annuo del PIL in Europa è stato determinato dall'industria delle telecomunicazioni, cioè non solo è l'industria più sviluppata e all'avanguardia, è anche l'industria attraente. Investimenti così imponenti però nessun operatore potrebbe sopportarli, qui il mercato non soccorre. Ora io ricordo la frase di Einaudi, certo un liberista, certo non uno statalista, che diceva il mercato risponde a domande, poi però ci sono i bisogni ai quali devono pensare le istituzioni che provvedono agli uomini. Un intervento dello Stato, ma delle province, dei comuni, delle regioni, può tonificare questa iniziativa, può creare un insieme virtuoso che spinga avanti questo programma. Ecco, c'è un ascoltatore, Lorenzo, che ci manda un sms al 349-238-6666 in cui ci dice che le difficoltà appunto di procedere sulla strada dei nuovi investimenti sono legate anche al fatto che di fatto Telecom è ancora un monopolista. Lei cosa ne pensa, dottor Calabrò? Innanzitutto in questi 3 anni della nostra consiliatura la presenza di Telecom è diminuita dal 94 all'84%, questo parliamo della rete in rame. Ma sulle reti di nuova generazione abbiamo una situazione vergine, quindi indubbiamente si proietta sempre l'ombra di questo passato monopolio come un incubo, ma se Obama ha posto tra le priorità del suo governo, che indubbiamente ha da affrontare situazioni di emergenza di tutto rilievo, la rigenerazione della rete americana con fibra ottica, evidentemente questo è un problema indifferibile. E guardi che negli Stati Uniti, come negli altri paesi, la situazione non è così critica come in Italia, perché lì il cavo c'è, da noi invece c'è soltanto la vecchia e buona rete in rame che è sovraffollata e intasata. Ecco, larga banda per tutti, l'annuncio di Barack Obama è proprio l'attacco, l'inizio delle prime parole dell'articolo di Corrado Calabrò oggi sul Sole 24 Ore, quindi questo appello americano, la svolta dell'America verso la larga banda che dovrebbe essere raccolto anche dall'Italia. Abbiamo un ascoltatore, Paolo da Brescia, buongiorno. Buongiorno. Anzitutto complimenti per la trasmissione, sentiti e non dovuti. E, niente, no, il mio intervento era relativo a questo. Si parla di infrastrutture, io sono pienamente d'accordo sul discorso che sta facendo il garante Calabrò, però poi mi trovo a vivere da circa un mese e nella mia zona una cosa assolutamente scandalosa. Per cambiare da un operatore all'altro, non faccio i nomi, il vecchio monopolista di Stato sta mettendo pesantemente i bastoni fra le ruote, per cui sono d'accordo con l'SMS del radioascoltatore di un attimo fa, e io sono appunto da un mese che non ho la possibilità di collegarmi ad internet, nonostante poi in grande parte lo utilizzi anche per lavoro, perché sono corrispondente per un giornale provinciale qui appunto della zona. E quindi ecco, trovo che l'appello sia assolutamente dovuto e doveroso, ma trovo anche che ci sia molto da fare proprio per questa situazione dove c'è un monopolista di fatto che mette i bastoni fra le ruote. E ripeto, questa situazione non la sto vivendo solo io, ma la stanno vivendo anche degli amici e dei colleghi qui in zona. Quindi è una cosa. La ringrazio, grazie mille di questo appello, di questo intervento. Ecco, dottor Calabro, tra i compiti dell'autority dovrebbe esserci anche quello di vigilare perché non ci siano degli abusi di posizione dominante. Sì, per la verità qui siamo in un campo in cui tutti tendono a trattenere il proprio cliente. Noi interveniamo nei casi di segnalazione puntuali e, fatte le verifiche, sanzioniamo. In generale devo dire che il cambio di un operatore all'altro in Italia è frequente. Siamo il paese con il più alto numero di cambi in Europa, ma di gran lunga quello che vede il maggior numero di cambi. E, il nostro obiettivo è di arrivare a un cambio entro 3 giorni e credo che ci stiamo avvicinando a questo obiettivo. Poi ci sono dei casi di manchevolezze che, se riscontrate, vengono puntualmente sanzionate dall'autorità. Stiamo parlando con Corrado Calabro, presidente dell'Authority per le Comunicazioni. Calabro, che ha scritto oggi sul Sole 24 Ore un intervento per sostenere un forte aiuto da parte dello Stato per realizzare l'autostrada del futuro, quindi la connessione a fibra ottica in tutto il paese, che possa garantire una connessione veloce tra i cittadini e lo Stato e tra le imprese e i mercati dove operano. Abbiamo un ascoltatore in linea, Gianluca da Verona. Buongiorno. Sì, buongiorno a lei e buongiorno dottor Calabro. Io do il mio pieno entusiastico appoggio a un'iniziativa del genere, perché proprio pochi giorni fa ho letto un'intervista del dottor Bernabé sull'Espresso, dove diceva che non hanno bisogno di aumentare la velocità perché il 95% della rete viaggia a 20 megabyte. Allora, questo è un dato aleatorio, nel senso che tutti gli operatori dicono di avere queste velocità incredibili perché fanno una valutazione in centrale. Io che abito a Verona città e ho un'attività imprenditoriale, sono distante 1 chilometro da questa benedetta centrale, su una linea che però al doppino io viaggio a 800 k, cioè gli albori della DSL. Allora, si riempiono tutti la bocca di questi 20 mega, questi 7 mega, 10 mega, parlano solo di mega. Dopo però nessuno va a verificare cosa succede a casa dell'utente. Io mi Grazie. Trovo con la... Grazie Gianluca, ovviamente qualche problema c'è. Dottor Calabro. Sì, devo dire che questo inconveniente segnalato da questo ascoltatore trova riscontro nelle innumerevoli segnalazioni e lamentele che noi riceviamo. Cioè, velocità teoriche di 20 megabit, poi in concreto se arrivano a 7 è molto. Perché? Innanzitutto, vabbè, la qualità della rete si degrada man mano che si allontana dalla centrale, come dice l'ascoltatore, e poi anche c'è che nei momenti di alta densità di traffico la rete si ingorga e non regge più questo sovraccarico, è appena appena sufficiente per il traffico normale. Quando si instrada un forte traffico dati, quale piccole imprese, professionisti e altri, ma anche i ragazzi inducono sulla rete, ecco che questa velocità teorica in pratica non viene raggiunta. E questo vale anche per la rete mobile e per le affermazioni che vengono fatte. La rete mobile può essere e deve essere integrativa di quella fissa. Oggi noi abbiamo un 95% della popolazione che è collegata in larga banda in rete fissa, ma 2,5 megabit. Noi abbiamo bisogno di raggiungere velocità superiori a 20 megabit, non voglio parlare di 100 megabit come il Giappone, la Corea e la Cina, stiamo attenti a non fare le ferrovie a scartamento ridotto. Io ricordo quando sono state fatte le ferrovie a scartamento ridotto, sembrava una grande trovata che si risparmiava sulla larghezza delle vetture che potevano passare nelle serre, nelle forre. Beh, quelle ferrovie sono state emarginate dalla circolazione generale. Quindi bisogna avere il coraggio di essere ambiziosi in questa prospettiva. Bisogna guardare un momentino al di là dei nostri piedi, un passo più avanti. Ecco, è un po' un'ambizione anche quello che lei dice nel suo articolo, quello di mettere un po' d'accordo lo Stato, le regioni, le province, i comuni, ecco, forse realizzare l'unità di intenti di tutte queste realtà amministrative non sarà facile. Non è facile e in Italia tutto è un pochino più complicato, ma altrove si è fatto. Le maggiori città europee sono state cablate proprio così, con l'intervento delle municipalità, che nel momento in cui si scava una metropolitana, si posa una fognatura, hanno l'obbligo anche di mettere un cavo in fibra ottica. non costa niente, è un coordinamento amministrativo locale che dipende semplicemente dalla buona volontà, dall'attenzione, dalla solerzia. Poi in Francia, per esempio, interviene pesantemente la Cassa Depositi e Prestiti a finanziare queste iniziative in fibra ottica. Anche in Italia abbiamo una Cassa Depositi e Prestiti. Sì, in fondo le risorse ci sarebbero, forse mancano spesso le procedure adatte per metterle rapidamente in funzione. Giancarlo da Bologna, buongiorno. Buongiorno. Ci dica. Buongiorno. Volevo spezzare una lancia a favore di una unica nuova rete di telecomunicazioni, che per evitare che si ripeta quello che in parte è già successo sulla rete normale attuale di oggi, cioè che i vari gestori cercano di farsi la loro rete propria, risultato i soldi, le risorse disponibili vengono suddivise in tanti rivoli che naturalmente messi insieme non riescono a assicurare il servizio della grande rete. Ci vuole una rete in fibra ottica, grande capacità, quindi essere ambiziosi, come ha detto il direttore, dobbiamo essere ambiziosi, una rete in fibra ottica, grande capacità nazionale che copra, che poi venga finanziata attraverso le municipalizzate, attraverso anche contributi di privati, non ha importanza, l'importante è che rimanga un ente unico che si mette al servizio di tutti i gestori, che tutti, com'è per la rete autostradale, almeno per la rete autostradale più importante. Grazie. Certo. Grazie mille. Ecco, dottor Calabro dovrebbe essere d'accordo sul fatto di avere una rete unica, ovviamente con una proprietà pubblica da individuare. Quale potrebbe essere l'assetto istituzionale, dottor Calabro? Le autostrade, quando sono state costruite in Italia, non è che venivano costruite una a fianco all'altro, l'investimento comportava un tale costo che un'autostrada come spina dorsale, come struttura portante era sufficiente, non era pensabile che si affiancasse una all'altra più autostrade, così non è pensabile che si affianchino più tratti in fibra ottica perché il costo dell'investimento è paragonabile, se non superiore, a quello delle autostrade. Detto questo, le iniziative possono essere molteplici. Io spero un centro di coordinamento governativo, noi da parte dell'autorità porremo delle regole che agevolino questo coordinamento. Gli interventi possono essere sia dalla mano pubblica sia da investitori istituzionali e non anche privati, probabilmente ci sono. Di chi la proprietà della rete? Un momento, qui io mi fermo perché io non esproprio nessuno. Quello che invece voglio dire è questo. Quello che in tutta Europa si fa, quello che l'autorità garantirà è che la struttura sia aperta, cioè di chiunque sia la proprietà, uno o più privati, partecipazione pubblica in forma di contributi, di investimenti o altra forma, la rete deve essere aperta, cioè il fornitore della rete deve essere distinto dal fornitore di servizi. A questo punto ci sarà equivalenza di posizione per tutti, a questo punto la concorrenza verrà salvaguardata e nello stesso tempo l'investimento potrà andare avanti, anche se, devo avvertire, è un investimento remunerativo solo nel lungo periodo, nel breve e medio periodo non è remunerativo rispetto al costo imponente che comporta, specie in un momento di esiguità di disponibilità finanziaria come l'attuale. Ecco, quindi per concludere, dottor Calabro, siamo di fronte alla necessità, a un bisogno reale del paese, siamo di fronte alla, diciamo, a un progetto che è ancora embrionale ma che comunque è molto importante per il futuro, raccogliere anche le forze per questo sarà uno degli obiettivi che anche dalla sua autorità potrà derivare. Certamente, in questa fase noi stiamo svolgendo un'azione di moral suasion che mi pare trovi in qualche riscontro. La condivisione dell'obiettivo è la prima e più importante cosa in questo momento. Immediatamente dopo detteremo le regole adeguate a garantire, come dicevo, quelle condizioni di accesso per tutti che sono necessarie in un paese democratico. Grazie mille, io ringrazio il dottor Corrado Calabro, presidente dell'Autority per le comunicazioni, di essere stato con noi, di aver illustrato questo progetto per una rete a fibra ottica che offra un servizio a tutti i cittadini, a tutte le imprese, per dare veramente un senso di modernità, una realtà di modernità all'Italia. Ringrazio Carmelo Lauricella in regia, ringrazio gli ascoltatori. Tra poco Viva Voce parlerà di immigrazione e di prospettive, date il clima di recessione che c'è nel paese. L'appuntamento con Dietro la Notizia per domani.